America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Giorno 2 di Memory Lane, una passeggiata sul viale dei ricordi, sul viale di questo 2010 che sta per chiudersi. Oggi vorrei dedicarlo alle questioni militari. L'America è al fronte, gli alleati sono al fronte, gli italiani sono al fronte in Afghanistan. È un anno in cui la guerra ha dominato, in cui il terrorismo ha dominato, in cui le spie hanno dominato. Non potremmo parlare di quelle che sono le tensioni a livello internazionale, ad esempio, senza ricordare WikiLeaks, questo straordinario fenomeno esploso durante l'estate, l'ultimo periodo dell'estate, e poi continuato fino a poco fa con rivelazioni sul fronte diplomatico. Ma forse alcuni di voi non lo ricorderanno, ma le prime rivelazioni di WikiLeaks furono su episodi di guerra in Iraq e poi in Afghanistan. Questo fenomeno WikiLeaks ha un po' rivoluzionato tutto, è diventato secondo me il più grande caso di spionaggio della storia, perché non si tratta d'altro, sono documenti riservati, segreti, che sono stati comunque resi pubblici e che hanno in qualche modo modificato un po' il dibattito politico, ma non hanno modificato i rapporti di fondo degli Stati Uniti, per esempio con l'Afghanistan, con il governo afghano. Ci troviamo in una situazione oggi in cui, devo dire, la tensione nel 2011 credo che continuerà. Perché? Beh, perché abbiamo visto, per esempio, soltanto il maggio scorso un attentato fallito a Times Square. La paura del terrorismo resta fra noi. L'idea di perseguire in Afghanistan, al confine con il Pakistan, i talebani, i militanti di Al-Qaeda, funziona e non funziona. Eppure nel corso dell'anno abbiamo visto anche degli spiragli di ottimismo e vorrei concentrarmi su quelli, a partire da queste dichiarazioni dell'ambasciatore Stéphane de Mistura, che è il capo della delegazione delle Nazioni Unite a Kabul. America 24, 22 novembre. Un accordo firmato tra l'Afghanistan e la NATO. La cosa più importante non è soltanto il fatto che ci siano delle date precise, 2011-2014, ma che con questo accordo si stabiliscono dei parametri di sicurezza reciproca che vanno al di là del 2014, e dunque l'ombrello NATO offre garanzie all'Afghanistan e un messaggio molto preciso ai talebani. Abbiamo ai microfoni di America 24 l'ambasciatore Stéphane de Mistura, il rappresentante del segretario generale delle Nazioni Unite a Kabul. Buongiorno ambasciatore. Buongiorno, buongiorno a voi tutti. Allora, un bilancio su questa firma. L'accordo è importante ed era necessario. Gli afghani hanno due caratteristiche, due pensieri costanti. Il primo è quello della propria sovranità. È un popolo fiero e il presidente Karzai continua a chiedere maggiore sovranità. Dall'altro, hanno bisogno di non sentirsi abbandonati per la terza volta. Si ricorda la prima volta con Najibullah, la seconda volta dopo i talibani, e il loro timore era che il 2011 era arrivederci, addio. E questo non lo volevano. Questo accordo li rassicura e nello stesso tempo li conforta di cominciare ad essere un popolo sovrano. Cosa significa questo per le truppe italiane? Beh, l'Italia si trova in una regione importante, in quella della città di Herat e dei dintorni. Io credo che la città di Herat già sta dimostrando ampiamente che c'è una possibilità di stabilità proprio nella città. Vedremo nei prossimi mesi quando i parametri verranno applicati. Comunque c'è ancora del lavoro da fare, perché bisogna assistere la popolazione Herat a reggersi sulle proprie gambe, ma sono molto vicini a farlo, più di qualche altra regione. Sempre sul fronte della distensione militare, non posso non ricordarvi il vertice NATO, il vertice NATO di Lisbona, novembre, un vertice importante perché ha stabilito i termini per uscire dalla guerra in Afghanistan. Dunque un vertice che resterà storico da quel punto di vista, un vertice poi importante anche perché ha incluso la Russia in certe decisioni in materia di difesa missilistica, un vertice direi improntato nel senso vero del termine, positivo

60 years have come and gone since the communist armies first crossed the 38th parallel. Sono passati 60 anni, dice il Presidente, da quando le truppe comuniste hanno attraversato il 38esimo parallelo, hanno spinto le truppe coreane a sud, a Busan, e sembrava che non ci fossero più speranze nell'estate del 1950, che ci fossero speranze di sopravvivenza per la Repubblica Coreana. E in quel momento, dice appunto Obama, nessuno aveva saputo, conosceva la Repubblica della Corea in America e sapevamo che non potevamo consentire che una nazione libera fosse occupata, e dunque la decisione di partire e di venire in Corea. Ci sarebbero mille altre idee, approfondimenti da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno, alla numero 4 nella nostra hit parade delle migliori canzoni di quest'anno negli Stati Uniti, dei Deer Hunter, questo gruppo straordinario di Atlanta. Desiree Line. New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.